Torniamo a settembre, ma no, torniamo a fine agosto. Però sai che forse non lo so, in effetti non lo so. Vabbè, comunque stiamo per andare in vacanza anche noi, anche perché tutti gli altri ormai ci hanno abbandonato. Panta 80 ha salutato la settimana scorsa. Gli ospiti non ci sono più perché sono tutti in ferie. No, e poi una delle cose belle di Radio Città Fujiko è indubbiamente il nastrone, con delle playlist fantastiche di musica fantastica. E quindi scriveteci e chiedeteci che cosa volete sentire. E io invece vi faccio sentire un pezzo che deve ancora uscire, ovvero, perché esce il 15 settembre, venerdì 15 settembre, la band psichedelica, anzi la metto già su visto che è tutto. Era bellissima anche questa musica di sottofondo. Te l'ho già tolta così. È vero, non era male, aspetta che la metto in pausa così dopo la sentiamo. No, dicevo, questi si chiamano Palmer Generator e il 15 settembre questa band psychedelic rock marchigiana pubblicherà il CD, il quarto album, chiamato Ventre. Il lavoro costituisce la quinta uscita ufficiale della formazione dopo gli album Shapes, Discipline, Natura e lo split PGTGS con i lodigiani The Great Saunites, ed è coprodotto dall'etichetta Bloody Sound. Michele, Mattia e Tommaso Palmieri sono padre, figlio e zio. Rispettivamente a basso, batteria e chitarra formano il Palmer Generator nel 2010 a Jesi, in provincia di Ancona. Power trio con attitudine post-rock stile Louisville, che si incontra con la psichedelia cosmica e ipnotica di stampo krautrock e con sonorità tra noise rock e math. Questa è Ventre 1 dal disco che appunto è in uscita a settembre, che si intitola Ventre, e i pezzi si chiamano Ventre 1, 2, 3, 4, eccetera, eccetera. E noi ringraziamo Peyote Press per averceli mandati. Stavamo parlando di Shiva Bhakta, che in effetti avevo detto devo far sentire un altro pezzo di Shiva Bhakta, poi mi sono dimenticato di metterlo in chiavetta, per cui niente Shiva Bhakta stasera, però sappi Lidio che ogni tanto ti pensiamo, non che lui ci stia ascoltando. Ah, fra l'altro mi sono dimenticato di postare su Facebook che siamo partiti, per cui ascoltiamoci Ventre uno un altro po'. Palmer Generator, mi piace questa cosa di pensare a un padre, uno zio, un figlio. Vero? Sì, no, infatti sì, è interessante. Ci sta come cosa a fare questo trio insieme. Tu hai mai pensato di fare musica con tuo figlio? No, perché no. Però sì, in effetti sarebbe simpatico. Sì, è una cosa carina. Poi lo zio. Nicola, se mi stai ascoltando, pensiamoci. Ma non lo so. Io quando erano piccoli gli mettevo sempre una chitarra davanti, le tastierine, eccetera, ma non hanno colto la mia voglia di avere dei figli musicisti. C'è sempre tempo. Infatti. E quindi oggi facciamo una puntatone dedicata alla musica, perché sono tutti quanti andati in vacanza. Esatto. Tu hai gran pezzi. No, in realtà abbiamo una cosa che succede nell'angolo della menzione. Dai. Però la facciamo dopo. Ok, è vero. Vuoi che lo facciamo adesso? Potremmo anche cominciare così. Potremmo anche fare questa cosa. Facciamo io di artistico così. Posso dirti che sono andata a vedere Gursky al MAST. Ah, ecco, che ci devo andare. Fra l'altro al MAST non so perché mi sfugge sempre quando ci sono le inaugurazioni. Bellissimo. E dunque manca sempre il MAST nell'angolo della menzione, sì. Che è un MAST invece. E vabbè, è bello, bella, no? Ci viene battuta. Vero? L'angolo della menzione. Ok, nell'angolo della menzione noi abbiamo solo una cosa, che però è una cosa interessante, ovvero giovedì 27 luglio abbiamo spettacoli, laboratori e mercatino del riuso a cura di Associazione Yucali. E questo succede nel Parco Oliviero Olivo, che è di fronte al civico 148 di Via Murri. Alle 17.30 abbiamo giochi teatrali musicali per bambini e adulti, Trucca Bimbi a cura di Rima Cheride, teatro con Luisa Vitali e Erika Salbego. Poi alle 17.30, dalle 17.30 alle 22.30 abbiamo il mercatino del riuso a cura di Associazione Il Tuo Amico Portiere, per cui abbiamo giocattoli, oggetti da collezione e libri. E se vuoi prenotare la tua postazione, scrivi a Il Tuo Amico Portiere @gmail.com. Poi alle 21 abbiamo il concerto spettacolo Se ci si può cantare chiedo licenza, una giornata di canti dell'Italia che fu a cura di Associazione Culturale Yucali APS. Abbiamo drammaturgia con Simona Sagone alla voce, Mirko Mungari alla chitarra, buzzucchi, oud e fiati, Umberto Cavalli fisarmonica e voce. E questi sono canti popolari italiani di varie regioni con strumenti etnici ma con arrangiamenti contemporanei, tra riscoperta della nostra tradizione e ricerca musicale. E nel parco ci sarà anche il carretto dei gelati, per cui giovedì tutti al Parco dell'Olivo, no, com'è che si chiama? Parco Oliviero Olivo, che è appunto in una laterale di via Augusto Murri, ma naturalmente domani su www.coxospaziale.blogspot.com troverete anche il link all'associazione Yucali, che è poi yucali.it scritto con la K, per cui è tutto abbastanza facile. Sono finite le menzioni. Possiamo dire forse che il 2 agosto suona Sacro Bosco? Giusto, il 2 agosto suona Sacro Bosco, lo possiamo dire in effetti perché il 2 agosto ormai sta per arrivare. La prossima settimana. E poi possiamo anche dire che ho appena letto in internet che il 6 agosto chiude invece la mostra a Palazzo Pallavicini, The World of Bansky, giusto se qualcuno volesse andare a vederla. Ok, che sarebbe andare. Anche meglio di no, visto che Bansky dice di non andarla a vedere. È per questo che ho detto questa, è per questo che ho parlato di questa mostra, per aprire questa discussione. Ah, vedi, bastarda. Ma dov'è questa? A Palazzo Pallavicini? Ah, ok, a Palazzo Pallavicini. No, io non ho nulla, anzi, a Palazzo Pallavicini ha fatto delle mostre spettacolari, tra cui anche quella di Coros. Non lo so, però Coros. Posso chiedere a internet e guardare. O se qualcuno Coros. Che ci sta ascoltando Coros. La risposta ci può scrivere al 333-180-94-94. E anche quell'altra della fotografa, dai, come si chiama? Fantastica. Non mi viene il nome. Sempre quest'anno? No, negli ultimi tempi, non so, forse negli ultimi anni. Ma sicuramente sì, non è un caso che non certo. Abbiamo mai menzionato la mostra di Banksy, perché Banksy appunto E infatti apre quasi una polemica questo tipo di mostra, no? Sì. Stavo cercando se trovavo Palazzo Pallavicini col Coros, ma non lo trovo, quindi lo menzioneremo in caso su coxospaziale.blogspot.com. Ma chiedo a Marco Roma o agli altri ascoltatori che sono in ascolto di Coxo Spaziale in Radio Città Fujiko questo lunedì così accaldato di luglio. andare o non andare a vedere una mostra di uno street artist dentro un museo? Beh, la risposta è naturalmente non andare. Non andare, soprattutto per il fatto che comunque Banksy stesso ci incita a non andare. Ringraziamo la Fiorella che mi dice che ho una bella maglietta. In effetti c'ho una bella maglietta dei Nabat stasera. E fra l'altro i Nabat hanno anche suonato e non li ho menzionati, però Steno, se ci stai ascoltando, sappi che prima o poi ti acchiappo e verrai a fare un piccolo live a Coxo Spaziale, perché manchi solo tu. E, sì, mi piacerebbe molto. Sì, no, anche a me. Sarebbe bellissimo. E quindi niente, no, non andate a vedere per piacere una mostra di uno street artist dentro un museo, perché è una cosa. Cioè, assolutamente... a meno che non sia Vivian Maier, ecco quella che avevo visto, di Corcos, ecco perché non si trovava. Raccontaci di quest'artista. Dunque, è un pittore ottocentesco che a me piace molto, a me piace tantissimo la pittura dell'Ottocento, tipo Giacomo Grosso, eccetera. Okay. Boldini, eccetera. Però la privacy non mi lascia andare a vedere. Ecco, anche a me Boldini piace tantissimo. Però hai visto questo Corcos, hai detto, no? Corcos, che è Vittorio Corcos, Livorno 1859, Firenze 1933. La mostra è stata dall'ottobre 2020 a giugno 2021. Era una mostra veramente, si chiamava Ritratti e Sogni, curata dal professor Carlo Sisi, ed era veramente spettacolare, cioè c'erano dei dipinti. Per esempio proprio. Sogni del 1896, che esatto. È un quadro meraviglioso, mm-hmm. Che io mi dimentico ogni volta che è di Corcos, ma mi piace da morire. Oppure c'era anche il ritratto di Enrico Panfacchi, che io vedo nell'aula professori dell'Accademia di solito, e che invece lì era in mostra, perché Enrico Panfacchi era un direttore d'Accademia, è stato anche senatore, per cui insomma, cioè vabbè, abbiamo Viale Panfacchi, adesso in realtà non so niente di Enrico Panfacchi, per cui non so perché ci è sia messo. È stato un poeta, critico d'arte, politico, critico musicale italiano, vedi. Nonché oratore e prosatore. Hai capito? Hai detto niente. Tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900. Ma quindi Stefano, posso farti una domanda? Chi è o qual è? Non chi è il tuo artista preferito, ma qual è la tua opera d'arte preferita? Perché oggi, visto che siamo noi due, ho voglia di farti qualche domanda sull'arte. Ok. La mia opera d'arte preferita presumo che sia Allora dell'Osservatorio, Gli innamorati di Man Ray, che è il famoso quadro con le labbra che volano nel cielo, che fra l'altro non ho mai visto dal vivo, perché è di una collezione privata e difficilmente si vede in mostra. C'è stata in una mostra sui surrealisti a Parigi qualche anno fa, ma non sono riuscito ad andare, per cui... Quando è stata la prima volta che l'hai visto? Non l'ho mai visto, quel quadro. Come immagine? Ah sì, come immagine penso a 13 anni, quando mi sono innamorato di Man Ray per sbaglio. Ok, in biblioteca. Sto credendo in questo momento. È molto bello, si vedono queste labbra grandissime sul cielo, che sembra quasi appunto che venga un bacio da parte di qualche pianeta. Esatto, ed è probabilmente anche il dipinto più bello di Man Ray, perché lui non era un gran pittore, diciamocelo, pur essendo, cioè lui si considerava un pittore, però era un maestro fotografo soprattutto. Diciamo che è soprattutto conosciuto come fotografo. Esatto, più come che fotografo per, più e come dadaista, cioè come per gli oggetti dadaisti, no? Il ferro da stiro coi chiodi, eccetera. Certo. Ma in realtà anche la sua pittura è quindi, fantastica. Quindi tu eri un adolescente, mm-hmm. Che a un certo punto in biblioteca ti imbattesti in questo quadro. Sì. E venne lì il tuo colpo di fulmine anche verso l'arte? No, il colpo di fulmine verso l'arte l'avevo già avuto da un po'. Prima dell'adolescenza? Sì. A 12 anni io ho avuto il colpo di fulmine verso l'arte. Può essere un po' autorappresentativa, visto che comunque questa rubrica magari l'hai detto qualche volta prima che non io arrivassi, credo. Però insomma, visto che chiediamo sempre queste domande a chi viene qua, posso per un giorno farti io queste domande, in caso mi cazzi con un po' di musica. Se proprio devi. Però insomma, mi piacerebbe, no? Farti queste domande. Quando è che hai cominciato a decidere di fare arte, o quando ti sei appassionato? Appunto, quando ero in terza media, a 12 anni, che c'era da scegliere che cosa andare a studiare alle superiori, mi avevano dato questo librettino bellissimo che fra l'altro da qualche parte dovrei ancora avere, con tutte le scuole superiori, per cui il liceo classico e tutto, cioè, la spiega, cioè praticamente c'erano due pagine per ognuno. E in fondo, come ultima possibilità, c'era l'Accademia di Belle Arti. E c'erano due foto con tutte queste statue. Ho detto: cazzo, bellissimo, vado a fare questa cosa qua. Mi leggo tutto quanto, dico: sì, mi iscrivo. E come ultima frase c'era scritto che ci volevano 18 anni per fare l'Accademia di Belle Arti. In effetti, non so bene perché l'avessero inclusa in quel librettino, perché al tempo l'Accademia di Belle Arti era semplicemente una scuola superiore. Ovviamente, stiamo parlando di Bologna. Sì, stiamo parlando di Bologna, esatto. E dunque ho detto: vabbè, io comunque voglio andare a fare l'Accademia di Belle Arti. E allora dopo ho chiesto che cosa si doveva studiare prima per poter andare dopo a fare l'Accademia di Belle Arti, e c'era il liceo artistico, e sono andato a fare il liceo artistico. Quindi comunque 5 anni te li sei fatti, non hai falsato i documenti, preso qualche ormone per... No, me ne sono fatti solo 4, però. Sono entrato in Accademia di Belle Arti a 17 anni, perché con il liceo artistico sezione pittura al tempo si poteva, adesso non è più possibile. E quindi da questo libretto magico, esatto, da questo libretto fondamentalmente ho deciso che la carriera artistica sarebbe stata la mia carriera, e almeno quello in tutta la mia vita non è mai cambiato. In pittura, perché tu quando hai visto varie, oppure no, hai valutato anche scultura? Sì, no, in realtà al liceo artistico mi piaceva tantissimo fare scultura, ma poi ho avuto questo professore che, siccome io avevo i capelli lunghi e lui era piuttosto anziano, si chiamava Villa, adesso non mi ricordo il nome, però mi odiava e dunque mi maltrattava e mi dava 4, pur essendo io un bravo, obiettivamente un bravo scultore, anche perché ho ancora le foto delle dei miei argille, dei miei lavori in argilla, e in effetti erano, mi ricordo che avevo fatto una copia del David del Verrocchio che era veramente fantastica, che ho fotografato e poi distrutto, ma lui mi dava 4 lo stesso perché gli stavo antipatico, e dunque per colpa sua non mi sono iscritto a scultura, ma sono andato a pittura. E questa scultura l'hai distrutta per un atto di ribellione? No, perché la creta era del liceo e dunque tu non te la potevi portare a casa. Cioè, fondamentalmente erano esercizi che tu stavi facendo, quando avevi finito ti davano il voto e poi la distruggevi e la rimettevi in mezzo a questo calderone enorme pieno di potenzialmente potrebbe essere che loro se la siano tenuta e la vendano già all'asta. No, perché tu la spaccavi e mettevi l'argilla dentro a questo calderone. Poi fra l'altro c'era l'assistente che aveva questa palettina e stava tutto il tempo a mescolare la creta, perché non aveva molto altro da fare, insomma. Quindi chissà che... Detto questo, devo ringraziare Aldo Galgano, che è stato il mio prof di figura invece al liceo artistico, che di solito lui consigliava a tutti di andare a studiare da un certo professore, ma a me mi prese in un angolo e mi disse: ma no, forse tu è meglio che vai da Pozzati. E dunque io, seguendo il suo consiglio, sono andato da Concetto Pozzati, che è stato veramente il mio maestro. Il tuo maestro all'Accademia. Certo, perché al liceo artistico uno può fare sia figura sia scultura e al liceo artistico in realtà a quel tempo tu avevi due sezioni: la sezione architettura per andare a studiare architettura e la sezione pittura per andare a fare arti visive. Certo, cioè si chiamava pittura ma sarebbe stata uguale per scultura o decorazione, insomma. All'Accademia poi con Pozzati hai soltanto dipinto o hai ripreso di nuovo a fare scultura? No, fondamentalmente ho dipinto, anche se Pozzati in realtà era molto aperto a tutto, a qualunque tipo di espressione artistica, cioè per lui non c'era nessun problema se tu non facevi pittura nel suo corso di pittura, però io dipingevo al tempo. Acrilico, olio? Acrilico. Sì, no, non ho mai avuto la pazienza di aspettare che si asciugasse l'olio e tuttora non ce l'ho. Quindi tuttora diciamo che è rimasto un po' il tuo imprinting sulla pittura ad acrilico. E invece la scultura, ho visto, perché ormai lo devo dire, ho visto una bellissima scultura tua in legno, e quindi mi chiedevo: hai mai di nuovo scolpito il legno? Ho mai di nuovo scolpito le... Sì, l'ho scolpita quando sono andato all'Art Students League di New York a imparare a scolpire il legno, perché in realtà non l'avevo mai fatto. E infatti quando sono andato, siccome mi serviva il visto per rimanere a New York, avevo fatto il visto da studente e mi sono chiesto che cosa posso andare a studiare in una scuola che fra l'altro poi ho scoperto che poi anche Murray ha studiato all'Art Students veramente? League. Quindi tutto torna? No, infatti sì. devo dire, no, un sacco di artisti famosi hanno, sono passati per l'Art Students League. E, no, sono andato a studiare scultura in legno perché era appunto l'unica cosa che non sapevo fare, e poi anche xilografia, per cui incisione su legno. Quella devo dire che mi è stata molto utile, soprattutto adesso che la devo insegnare. Sì. Insegni xilografia all'Accademia? Insegno anche, insegno tecniche dei procedimenti a stampa, per cui anche xilografia su, tendenzialmente su linoleum. Certo. Se avessi in questo momento uno studente delle medie o del liceo, cosa gli consiglieresti? Delle medie, sì. Mm-hmm. Tu che insegni, però, non hai mai insegnato a studente delle medie? No. Se in questo momento ti trovassi in un buco spazio-temporale, ti trovassi davanti a una scuola di studenti delle medie, cos'è che gli consiglieresti, come magari qualche ragazzino o ragazzina ci sta ascoltando, no? Mm-hmm. E prima dell'estate stanno orientando le loro decisioni scolastiche. Cos'è che gli consiglieresti di andare a studiare e perché? Beh, sicuramente devono guardare a quello che è il loro interesse in generale, cioè che cos'è che li appassiona quando, anche solo quando fanno i videogiochi o guardano la televisione, senza. Certo. Però sicuramente sono, cioè devono tenere conto di quello che li appassiona. Se sono persone che disegnano tutto il giorno, e ce ne sono tantissime, io dico andate pure a fare il liceo artistico, perché poi il liceo artistico adesso ti forma in maniera molto più completa rispetto a quanto non facesse quando l'ho fatto io col vecchio ordinamento. E questo implica anche magari andare a fare dei mestieri che non sono esattamente l'artista visivo, ma possono essere tantissime altre cose. Possono essere, certo, il videomaker, possono essere il creativo all'interno di un'azienda, certo, possono essere il marketing creativo, eccetera eccetera. Cioè il, certo, liceo artistico adesso ti forma molto bene su varie tecniche, ma nello stesso tempo anche a livello filosofico ti dà degli input importanti. Sì. Una cosa che mi ha colpito molto che hai detto, ed è una cosa in cui credo tantissimo anch'io, è che non tutti dicono, soprattutto in una, diciamo, domanda di orientamento verso la scelta di studio da intraprendere, è quella rispetto a sono andato a studiare quello che ancora non sapevo fare, no? Cioè, molto spesso invece nella vita insegnanti, genitori, fratelli maggiori ti suggeriscono di andare a fare quello che sai già fare, no? Probabilmente questa è un'attitudine dell'artista, secondo te? Andare a cercare quello ancora che non sei in grado di fare per migliorarti o per scoprirlo? È una buona domanda, in effetti. Hai presente, no, al liceo che ti dicono cos'è che sei bravo a fare? Allora molti dicono so fare i calcoli, bene, benissimo. Economia. Lo scientifico. Esatto, cioè tutto già prestabilito. Invece una cosa proprio ho prestato particolare attenzione è stato proprio che hai detto sono andato a New York a studiare a questa scuola perché l'unica cosa che non sapevo fare era questa. Ero già un adulto, avevo 27-28 anni, per cui insomma. Certo, saresti stato un'ottima testa da consulto per un ragazzo di 12, no? O certo, di 13, cioè. Però sì, sicuramente la curiosità aiuta tanto lo studio, no? Cioè se non sei curioso fai fatica a studiare perché non ti interessa quello che stai studiando. Certo. Se sei curioso di tantissime cose sei facilitato nel voler placare questa curiosità, e dunque vai a studiare anche come funziona l'orologio, perché alle 20:30 partono le pubblicità delle 20:30, per cui ci salutiamo così. Spaziale. Ma si sentono le cicale anche qua? Sì, non capisco perché, se sono quelle fuori che stiamo riproponendo noi oppure no. Comunque, bentornati a Coxo Spaziale, siamo alla 457esima puntata. E non abbiamo ancora fatto sentire il vocale di Marco Roma, ti rendi conto? Dai, caccialo adesso. Eccolo qua, forse. Buongiorno, quello che vi dico è godetevi l'estate perché si sa è molto breve, è molto molto breve. Io sono Marco Roma, buongiorno a tutti voi. Eccolo. Sappiamo che è sempre sopra l'equatore perché è stata anche per lui, quindi sappiamo che è dalla nostra parte del mondo. Sbaglio? Cioè è giusto che l'estate sia uguale da tutte le parti? Hai ragione. Sopra l'equatore? Sì? Sì, più o meno sì. Più o meno. però sì, è indubbiamente sopra l'equatore, perché altrimenti esatto, sarebbe inverno in Australia o in Argentina. Adesso è inverno, molto frio. Mi ricordo una volta che quando a Londra lavoravo al telefono con il Roy Alberto, mi ha telefonato uno dall'Argentina che voleva dei biglietti e gli ho detto: ma che tempo fa? Cioè, io stavo morendo di caldo e gli ho detto: ma che tempo fa a Buenos Aires? E lui: oh, molto frio. Grande. E in effetti ho detto: ah, caffè, sì, in effetti è inverno. È strana sta cosa, no? Sì, che dall'altra parte del mondo sia inverno. Sì, sì, è stranissimo. Cioè, dipende da come lo guardi, in realtà. Cioè, da che parte gira e guardi il mondo, perché magari noi siamo dall'altra parte. Cioè, tu domani vai a New York, ma là c'è un caldo bestia come qua. Esatto, no, quindi sopra l'equatore. Ho raccontato un po' di fatti tuoi, scusa. No, va bene, non ti preoccupare, non è un segreto. E invece mia figlia è andata in ferie. E allora volevo dedicarle una canzone. Che bello. Che siccome me la stava facendo sentire su YouTube dalla mattina alla sera, ho detto: aspetta che la scarichiamo e la suoniamo a Coxo Spaziale. Lui si chiama Amalfitano, è abbastanza sconosciuto, anche mia figlia un po' come me ascolta artisti abbastanza sconosciuti, tipo Jenny Owen Youngs, e questa canzone si chiama Amore, eccola qua. Ma con la bomba a mano la gioventù viene e va, falene di Roma, estetiche di ombre dentro una fontana. E tu che facciamo? Ed io era meglio prima, e tu che ti frega? Forse sì, forse al mare, forse al mare, forse è più bello non capirci un cazzo, un giorno qualunque, capire l'amore, cercarti in fondo al buio, scatenare il sole. Okay. amalfitano con amore era questo. E direi che la dedichiamo a tutti gli innamorati. A tutti gli innamorati. Stavo guardando, stavo cercando Amalfitano su Instagram, ma non, non lo trovo. Sarà andato a farsi un giro. No, non lo trovo. Marco Amalfitano sarà lui, boh, chi lo sa. Non lo so. Non e quindi so questa canzone. Ah, Ria Amalfitano. No, non è neanche questo. Ah, tua figlia. Se sì. Qualcun altro vuole dedicare qualche canzone, per esempio leggo un messaggio privato che mi dicono Marco Roma come sta? L'abbiamo già mandato in onda, arrivate tardi. E scriveteci e dedichiamo la canzone che volete al 333-180-94-94. Olè. Siamo in diretta solo su Radio Città Fujiko 103.1 FM. Grande. E siamo gli unici inimitabili, Mia Daschi su Piei e Stefano Davio Pasquini, a parlare di estate, musica, mostre che, chi lo sa, mi chiedevo l'altro giorno come mai non ci sono tante, tante cose da fare ad agosto nel mondo dell'arte, non soltanto perché si va in vacanza, ma anche il fatto di residenze. Tu che cosa ne pensi? In effetti comunque piano piano noi ci stiamo un po' internazionalizzando anche noi, perché in effetti 20 anni fa ad agosto non c'era niente, e nessuno nelle città, mentre invece adesso qui a Bologna per esempio abbiamo un sacco di turisti, i musei sono aperti, perché addirittura chiudevano i musei in agosto, che era abbastanza paradossale, eccetera. Residenze estive in realtà ce ne sono tantissime, di solito sono in posti tipo in montagna eccetera, in posti dove si sta più freschi, certo, o al mare. So che c'è stata una bellissima residenza di, anzi una residenza simposio di Francesco Lauretta e di Presicce, quella di Luigi Presicce, a dov'è che è? Santa Rosa. Santa Rosa. Firenze. No, non è a Firenze, no, era giù in Puglia. San Cesario di Lecce, grazie. Che però è finita ed era una sorta di simposio di pittura, però io li seguo su Instagram e ho visto che si sono divertiti un sacco, tra cui c'erano anche un po' di amici tipo Mattia Barbieri o Elisa Filomena che dipingevano infelicità in questo posto che sembra fantastico, per fantastico. Cui spero che l'anno prossimo mi invitino anche a me. Era a Fondazione Lacco Lemon? Sì, esatto, era esattamente lì. E poi invece mi è arrivata una segnalazione, ovvero adiacenze ci ha scritto per dire che chiudono per l'estate, ma riaprono mercoledì 6 settembre, che probabilmente sono i primi a inaugurare, perché inaugurano con i codici della trasparenza di Fabio Ricciardiello a cura di Azzurra Immediato, che abbiamo avuto qui a Coxo Spaziale e che salutiamo. La mostra sarà visitabile fino al 17 settembre, per cui sbrigatevi a tornare dalle vacanze, tutti i giorni dalle 16 alle 20, che poi non è vero che sono tutti i giorni, perché è tipo dal giovedì al sabato, e naturalmente questo è sempre ad adiacenze in vicolo Spirito Santo 1B. L'ultima volta che sono andato ad adiacenze ero in macchina, cioè ci sono passato davanti in macchina e un turista austriaco aveva parcheggiato in fondo a vicolo Spirito Santo pensando che fosse un parcheggio, mentre invece aveva chiuso la strada completamente. Non ci posso credere. E siccome è a senso unico non sapevo come tornare indietro, perché avevo paura di sbattere contro la G7 che invece è lì di dietro se fai retromarcia. E come hai fatto? Niente, ho telefonato ai vigili e gli ho detto c'è una Porsche da spostare perché ha chiuso la strada, e mentre aspettavo e parlavo con i vigili è arrivato sto ragazzino che non aveva capito e era andato a comprarsi delle scarpe in via del Regno. No. E sì, allora gli ho tirato due nomi e il vigile mi fa: mi sembra di aver capito che è venuto, è passato a spostarlo. Dico sì sì. Quindi mi raccomando che all'opening del 6 settembre non venite e non parcheggiate lì. No, più che altro mi raccomando non parcheggiate in diagonale davanti a una strada in centro a Bologna, perché poi le altre macchine non passano più. Direi che possono anche venire a piedi. Direi che possono anche, sì, no, in effetti sì, potete usare i parcheggi parcheggiabili e poi andare in giro per il centro a piedi, perché è abbastanza facile. La prima cicca me la accendo all'alba, faccio due tiri sa di Jugoslavia, esco di casa che ho bisogno d'aria, e cosa vuoi che ti dica? Vengo dal niente e voglio tutto. Vengo dal niente e voglio tutto. Vengo dal niente e voglio tutto. l'ultimo tiro e poi ti giuro che la butto. Milano sottomarino, mirano sotto al mirino e sparano bang. Qui non ci sono più squadre, figli della pizza, lievito madre. Se avevo i soldi mica la facevo una vita da cani randagi. Siamo terroni che mangiano la cotoletta, sì, quanta saudaci. Cantautori in lutto, natura morta, forse risorge. Antonello venditi, manca una T, nessuno se ne accorge. Giambellino, scendo sotto casa, faccio colazione con il ciambellino. Senza avere i soldi del tuo papparino, tiro e faccio i fumetti come Papperino. Per Venite ci guardano storto perché abbiamo facce tipo Sarajevo. Qualcuno si sta armando, ma armando chi? Boh, sarà Diego, musica pop, te la spiego. Me lo lascia, lui va impara. E voi che ci cascate, mia gara. Poi ti giuro che la butto. La prima cicca me l'accendo all'alba. Faccio due tiri sa di Jugoslavia. Esco di casa che ho bisogno d'aria. E cosa vuoi che ti dica? Karma, karma, dopo la tempesta. Solo noi sappiamo quanto abbiamo corso. Gianna, Gianna aveva un coccodrillo sopra la maglietta che paga lo sponsor. Fuori dai confini americani, tentativi per entrare vani. Siamo messi che abbaiamo, insomma siamo messicani. Ti do un OCB così ti calmi e dopo non mi uccidi. Vuoi fare OCM insieme a OCM che duri 10.000. Le due parole che ho sentito più spesso qui. Sigaretta, ascendi. L'ultimo tiro e poi ti giuro che la butto. Grandi Comacozzi. Ho alzato solo me stesso, scusami tanto. No, figurati, sei andato al loro concerto, no? Sono andato al loro concerto, a dove era? Non mi ricordo, all'Estragon. Grande. Fantastico. Sì, sì. E abbiamo degli altri pezzoni per questa super puntata di Coxo Spaziale dedicata alla musica. E posso mandare un appello anche ad altre persone che hanno voglia, artisti emergenti, come cosa ovviamente non era un artista emergente, però ad artisti emergenti possiamo dirgli? Beh, direi che se ascoltano Coxo Spaziale lo sanno che possono mandarci Fondazione Lac au Lemon, dice Giancarlo Norese che ci sta ascoltando dal vivo, per cui ciao, ciao Giancarlo, grande. No, che di solito lui ci ascolta registrati. No, cosa volevo dire? No, che chi ascolta Coxo Spaziale lo sa benissimo che potete mandarci i vostri MP3 a coxospaziale@gmail.com e noi saremo super contenti di suonarli, anche perché appunto siamo un programma di arte contemporanea, per cui ci possiamo permettere di suonare qualunque tipo di musica senza dover dare delle spiegazioni. Esatto, nessuno. Infatti. Fondamentalmente. Infatti ringraziamo Felix di Boom Rush Promotions, che è da un sacco che ci manda sempre della gran roba, perché adesso vi faccio ascoltare Zion Head featuring Awa Falls con All That She Wants, che è una hit che probabilmente alcuni di voi riconosceranno. La riconosceranno da cos'era? Sarà stato il 2001-2002. Grande. No, è nei primi anni 90. Ace of Base, Swedish pop group. Erano i primi anni 90, dice. In questa cover version puoi aspettarti un po' di hip hop, R&B, urban type, con vibrazioni, con un feeling reggae. It's a day for catching tan, just lying on the beach and having fun. She's going to get ya all that she wants. Here's another baby. Abbastanza estiva come hit, sì, questa è uscita il 30 giugno per Z2DZ Music Production. All that she wants is another baby, yeah. that it's gonna work out. She swear that it's gonna work out, no joke. Because it's gonna work out in the morning when I wake up. I'm dreaming that it's gonna work out. Go for a drink even I take out. This feeling like it's gonna work out in the morning when I wake up. So if you are in sight and the day is right, she's the hunter, you're the fox. The gentle voice that talks to you. One God forever. One God, one God. It is a night of passion, but the morning is goodbye. Beware of what is flashing in her eyes. She's going to get ya. All that she wants is another baby. She wants a man that really, really look good. All that she wants is another baby. Damn good for a little pretty girl. All that she wants is another baby. She wants a man that really, really look nice. She wants, here's another baby, yeah. Despite it was a fling, you know I would not swing with her. Like a pretty piece of diamond ring, I would not bling with her. And me, I tell you straight, this thing could never work with her. Like a tree, I go, I would not flourish her. Pack her things and fly her gonna Canada. It's searching off for one night with some other fella. She switch it with her flow like the daily weather. No one Jacob tells me ever sleep with her. She wants, here's another baby. She wants a man that really, really look good. All that she wants, here's another baby. Damn good for a real pretty girl. All that she wants, here's another baby. She wants a man that really, really look nice. All that she wants, here's another baby, yeah. All that she wants, here's another baby, baby. Just one loving. She wants, here's another baby. One again. All that she wants, here's another baby. Just one loving. All that she wants, here's another baby, yeah. Posso dire che il mood era molto estivo, molto carino, ci mancava un mojito e una vista mare o con un piccolo tramonto, però non ascoltavo un pezzo un po' reggae da tanto tempo. Hai visto cosa ti faccio sentire? Grazie a Boom Rush Promotions, anzi dopo anche la canzone di chiusura arriverà da loro. Ecco il solito, il Ryanair delle 20:50. E cos'altro ci dobbiamo raccontare? Ma niente, direi che cioè, abbiamo degli altri pezzi da sentire forse musicalmente. Abbiamo degli altri pezzi da sentire musicalmente. Aspetta un po', che cosa abbiamo? E poi niente. Sarà un agosto molto lungo senza Coxo Spaziale. Lunghissimo, poi aspettiamo. Non è detto che non appaia qualche puntata così, ah beh, certo. D'amblè, perché non si sa mai, eh? assolutamente e poi a settembre avremo di nuovo un sacco di ospiti super frizzanti. Ah ecco, ti posso far ascoltare un altro abbastanza sconosciuto. Sì, lui si chiama Giorgio Poi. Volentierissimo. E questa è Tubature. Con la felpa blu e le scarpe da ginnastica, la Madonna sul divano, con gli occhi hai disegnato sul soffitto i tuoi pensieri, ragnatele ad opera di abili ingegneri, è lì che vuoi andare ad abitare. Hai detto non mi va di restare a casa, andiamo fuori a guardare la notte scivolare sul canale, oppure si potrebbe rimanere a parlare chiusi dentro un bar, a lasciarsi sciogliere la lingua nella bocca. comunque il 2 agosto tutti alla, naturalmente alle celebrazioni del 2 agosto alla mattina, ma alla sera bisogna andare al Plug Open Air, rassegna estiva di musica elettronica che si terrà a Villa Paradise, o si pronuncerà Paradise o Paradise, chissà, agriturismo in via Piccinini 9, dove naturalmente appunto ci sarà Sacro Bosco che fa un DJ set. Wow, wow. Abbiamo suonato un sacco di musica italiana oggi, simpatico anche questo Giorgio, poi c'ha una vocina un po' strana, devo dire. Come se fosse un po' voloco, come si chiama? Un po' volocata? Volocata? Non lo so. Sai l'app voloco che modifica la voce? Ah, ok. L'hai mai provata? No, mi manca. Dunque anche tu sei una che pensa che l'anno cominci a settembre? Sì, ah, definitivamente. Ho immaginato. E dunque quali sono le... cos'è che si fanno per l'anno nuovo? Le, i buoni propositi. I buoni propositi. Quali sono i tuoi buoni propositi per l'anno nuovo? Allora, buono proposito numero uno, spero di avere sempre soldi per pagare il mutuo. Ah, certo. Quindi questo, questa... direi che è un buon proposito che anch'io mi propongo di avere. Insomma. Spero che anche l'anno prossimo, insomma, questa cosa mi accompagni. Certo. E poi voglio fare una mostra. Mm-hmm. E poi voglio fare una capsule collection. Una capsule collection? Che cos'è una capsule collection? Una collezione ad edizione limitata. Oh, wow. con i pazienti dell'ospedale che hanno collaborato con me e che saluto, dell'ospedale Bellaria, del centro Susan Komen. Abbiamo fatto dei disegni e li vorrei tanto vedere nei reggiseni, e quindi le ho promesso che le avrei fatto fare anche una capsule un giorno. Fantastico. Questi sono i miei, e i tuoi? Sì, anch'io ho una mostra in programma e anch'io devo continuare a pagare il mutuo, per cui... E anche tu una capsule? Chissà, no, la capsule mi manca, però non si sa mai, mai dire mai, chissà cosa ci porterà questo mezzo anno nuovo, perché in effetti è strana sta cosa, no? Che l'anno scolastico comincia a settembre. Io lo calcolo, sì, settembre-giugno anche per me. C'è sempre stato che per me è settembre-giugno, infatti i periodi in cui sono più nervosa sono luglio e agosto. Ah, vedi, perché è un non anno, no, cioè infatti. Non si sa se sei ancora all'anno prima, esatto. O all'anno dopo. Sì, sì. Ho capito, però a me piace il caldo. No, ci sta. Ci sta, però in effetti un po' di nervosismo. Così lieve, che dici aspetta, ma dove sto andando, cosa sto facendo, l'anno prossimo cosa faccio? Poi a un certo punto arriva settembre, l'acqua alla gola e ce li hai tutti i progetti che avevi sognato di avere, e poi questo dicembre che ti sega un po' le gambe, che dice anno nuovo, ma come, ho già cominciato da tre mesi a farmi il mio anno nuovo. Quindi ci sta. Alla Gauguin, chi siamo, dove veniamo e dove andiamo? Era Gauguin che lo diceva? Sì, aveva fatto sto quadro enorme dove c'è... Mi manca. La bimba nata. Ah, ok, certo. Sì. Però... Chi siamo, dove andiamo, dove veniamo? Una roba del genere. Adesso lo cerco. Vai, per dirlo. E invece sono le 20, poi non abbiamo nessuna fretta, però sono le 20:58 e in effetti dovremmo salutare, se non altro per far sentire le pubblicità delle 21. È Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo. Ok, grazie. Di Gauguin, realizzato nel 1897. E se passate per Boston, è proprio conservato al Museum of Fine Arts. Ah, cavolo, sono stato a Boston, ma non sono andato al Museum of Fine Arts. Che peccato. Vabbè, io ero Mia da Schio su Piei e questo era Coxo Spaziale. E io ero Stefano da Pli Pasquini. E grazie per averci ascoltato finora, fino per quest'anno, e ci sentiamo l'anno prossimo. Io presumo verso fine agosto, non lo so. Io anche non sono via, però fine agosto, inizio settembre ci... Sì. Ci potremmo risentire, anche perché se non ci prendiamo la nostra slot rischiamo che il nostro direttore ce la rubi. Ci siamo al fine agosto, per cui lasciamo come al solito che il nostro direttore ci descriva in questo modo, ma comunque vogliamo bene anche a lui. Ciao Cannella, buona estate. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla, che è Life is not a dream. Gotta know it's real, isn't that it? You know what? Life is not a dream. Life is not a dream. Uptown Abbey meets Omar Perry, Belgium and Jamaica. Uptown Annie Abbey è il loro primo EP, che esce il primo agosto, per cui non l'abbiamo ancora sentito. Esce il primo agosto questo pezzo, per cui siamo super in anticipo per Uptown Abbey. Vabbè, si chiamano così, cioè è autoprodotto praticamente. E dunque niente, buona estate, ci risentiamo quanto prima. Oh, perché non sei spenta? Aspetta che sei spenta. Eccoti. Forse era così. A presto, buona estate. A presto e buona estate. Ciao ciao. You got to live it. Nobody can tell you your experience and the thing where you go through and the life where you live. Cock show spaziale.